notte ci si appoggia al pensiero di essere inevitabilmente d'aiuto a qualcuno, magari un servizio mai chiesto, eppure si continua a far danni collaterali per renderci tutti uguali. Dimmi come li lavi, acido ed arsenali. Danni collaterali, dimmi come li sfami con le bombe e gli ideali. Con le bombe e gli ideali. Con le bombe e gli ideali. Con le bombe, con le bombe. Quanta coscienza devo avere per aiutare? Quanta coscienza devo avere per non far male? Quanta coscienza devo avere per capire come fare per non esportare mio dolore? Senza voler pretendere inevitabilmente qualcosa o qualcuno, magari un rapporto indigesto, eppure ci si ostina a far danni collaterali, danni collaterali, danni collaterali per renderci tutti uguali, danni collaterali, danni con le bombe e gli ideali. Quanta coscienza devo avere per aiutare? Quanta coscienza devo avere per non far male? Quanta coscienza devo avere per capire come fare per non esportare mio dolore? Costantemente ci si appoggia al pensiero di essere inevitabilmente d'aiuto a nessuno, magari un servizio già chiesto, eppure ci si ostina a far. Con le bombe gli ideali. Danni collaterali per renderci tutti uguali. Dimmi come li lavi, acido ed arsenali. Danni collaterali, dimmi come li sfami con le bombe gli ideali. Con le bombe gli ideali. Con le bombe gli ideali. Con le bombe, con le bombe. Quanta coscienza devo avere per aiutare? Quanta coscienza devo avere per non far male? Quanta coscienza devo avere per capire come fare per non esportare mio dolore? Quanta coscienza devo avere per aiutare? Quanta coscienza devo avere per non far male? Quanta coscienza devo avere per capire come fare per non esportare mio dolore?